anche amici del Move to Groove. 18 marzo 1978 è la grande prova del folletto Calvin Murphy, 57 punti e 6 rimbalzi, ma purtroppo questo non porterà la vittoria di sui Houston Rockets, che perderanno 106 a 104 contro i New Jersey Nets della loro rookie Bernard King, che ne metterà 27 con 6 rimbalzi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, caro Paolo, grazie per questa palla 2 che ci porta nell'arca della gloria, nella Hall of Fame. Grazie per la citazione di due grandissimi, uno che ben conosciamo, probabilmente il 3 puro più forte di tutti i tempi, per la pallacanestro che intendiamo noi, ovviamente. Ribadiamo l'hashtag cambiategli nome, perché adesso purtroppo parlare di pallacanestro mi è sempre più difficile. Accompagno al Mood Group questo titolo perché secondo me è, purtroppo lo dico anche con grande mestizia, una motivazione per avere una trasformazione che è già accaduta, sulla quale ci soffermiamo così ogni tanto saltapicchiando in qua e in là, mettendo in evidenza gli aspetti che più che altro portano a un'apertura dell'arca della vergogna piuttosto che dell'arca della gloria, che quest'oggi sarà invece protagonista, the Hall of Fame per la NBA. Intanto, visto che è stato citato Calvin Murphy, che giocatore Calvin Murphy, giocatore velocissimo, alto 1,78, un giocatore non certo titanico in quanto statura, ma di statura cestistica elevata. Non sono un amante dei giocatori particolarmente piccoli, ciò non toglie che Calvin Murphy è l'eccezione che conferma invece una regola, dove è racchiuso un grande talento, seppur in una statura non certo elevata. Tra l'altro lui, mi pare, Paolo mi può correggere, che è più enciclopedico di me addirittura, o come me, dai. Abbiamo un Calvin Murphy che ha avuto anche un passato da pugile, per cui certo in quel caso la statura non è evidente, però una nota di cronaca: Calvin Murphy è stato anche nei suoi percorsi sportivi pugile. Arriva nella NBA e sarà un giocatore fondamentale in periodo di pre-rivoluzione cestistica, al fianco di un Moses Malone in pieno del suo sviluppo di percorso per arrivare poi in seguito ai Philadelphia 76ers. Formerà una coppia mostruosa che arriva in finale nell'81 contro i miei amati Boston Celtics, di cui parleremo a breve. Saranno sconfitti, ma indubbiamente la coppia Calvin Murphy e Moses Malone sono motivi di grandissima pallacanestro di Hall of Fame. Iniziamo con Calvin Murphy e Moses Malone, allora, e sia un asse play pivot fondamentale ed è chairman of the board in playlist, per iniziare anche la musica in funky, soul and jazz per quest'oggi il Mood Groove. Tra poco poi parleremo di un episodio capitato a Boston che... C'era una regola: se devi litigare con qualcuno in NBA, non litigare con Calvin Murphy, perché lui i colpi li sa sestare bene bene. Off the Board, dedicato a Moses Malone, tra l'altro è stato anche un nomignolo, un nickname per il più grande rimbalzista, soprattutto in senso offensivo, di tutti i tempi, il presidente degli anelli, il presidente del tabellone, il presidente, colui che presiedeva il gioco sotto le plance per Moses Malone, e l'approfondimento della Hall of Fame per quest'oggi, e anche Hall of Shame, non solo Hall of Fame. E purtroppo parte, a mio modesto parere, poi vorrei sentire anche il pensiero di Paolo Onofri, riguarda il contemporaneo, ed è stato un episodio che ha coinvolto la franchigia dei Boston Celtics. Non ho ovviamente più interesse per quanto riguarda, se lancio l'hashtag cambiategli nome, non ritengo più tutto ciò pallacanestro, ma è capitato sul parquet, sul grande parquet incrociato, non è più il Boston Garden. Tra l'altro il Boston Garden è una sede che è stato panorama e palcoscenico dei più grandi momenti di vera pallacanestro, oltre che il Forum per i Lakers, il Madison Square Garden per il New York, insomma queste grandi arene, magari ne faremo uno speciale. Ma veniamo ai giorni nostri, al Garden, quello nuovo a Boston, parquet incrociato, già motivo di meraviglia quando vidi questo parquet tutto singolare. Da quel che ho capito, nonostante il gioco fosse fermo, è chiaro che la continuità del gioco porta un atleta dei Phoenix Suns ad impostare un tiro, una conclusione, che strano, è da tre punti, ma pensa te che strano, questa conclusione viene fermata, e non da un difensore in campo, viene fermata dal coach dei Boston Celtics, che entra in campo nonostante il gioco sia fermo, e questo ovviamente a gioco fermo non ha convalidato e non ha annullato assolutamente la continuità, perché come ho precisato già ampiamente fermo in seguito a una richiesta di time out, è il gesto che me ha infastidito tantissimo. Questo allenatore è andato a tentare o a stoppare il giocatore che, preso da una continuità, ha portato avanti la sua conclusione. Insomma, le motivazioni che ha dato sono state abbastanza, non una giustificazione, nonostante tutti i motivi potessero essere una somiglianza di una giustificazione, ma per me non tiene sportivamente parlando. Dico molto chiaramente, io non vedo Billy Cunningham, Casey Jones entrare in campo per tentare di stoppare Larry Bird o per tentare di fermare un contropiede di Julius Irving. Non vedo questi allenatori come Don Nelson, come Jack Ramsey, avere un atteggiamento tale, e quindi non è stato, a mio parere, esattamente qualcosa. Volete dire folcloristico, volete dire grande grinta e coinvolgimento? Quando si è coinvolti dal gioco, quando si è presi, è chiaro che più volte è capitato anche a me, in contropiede magari per un fallo in precedenza, io sono andato a concludere allo stesso modo, al limite prendi un richiamo dall'arbitro e io ho fischiato fermati, male che vada, però sei coinvolto, hai praticamente la corsa nelle gambe che già è lanciata verso la conclusione dell'azione, e questo è per me più comprensibile piuttosto che l'entrata in campo per fermare un tiro da tre punti. Beh, la giustificazione è: questo è un giocatore di striscia, ai tempi non andava questa affermazione o questa definizione, cioè se mette il primo tiro, anche se ha motivo di gioco fermo, potrebbe poi avere un percorso di continuità assolutamente vincente, cioè essere on fire, quindi nel dubbio l'ho fermato. Ma sei l'allenatore e poi il gioco era fermo, cioè... Questo non è piaciuto neanche a me, mi sa tanto della classica ognuno ha i suoi 5 minuti di gloria, ecco, questa era la gloria del coach che è completamente deragliata, ma dimostra ben altro vincendo, portando la tua squadra ai successi come i coach che hai citato te, Willy. L'NBA oggi purtroppo è fatta anche di queste robe che sembrano tutte delle scene goliardiche che trovano poi il tempo che trovano per i miei gusti. Non un bel vedere. Ma perché ho sentito, ho visto anche motivo di dai grande, insomma un grande coinvolgimento, no, per me non è stato un bel gesto, non è stato un bel esempio, e paragonare sempre di più il non basket a quello che è invece un baraccone, un circo. Filosoficamente l'abbinamento di quest'arca della gloria o arca della vergogna con la contrapposizione è affrontare seriamente e professionalmente, portando ognuno le proprie capacità chiaramente al servizio di una comunità, di una franchigia, di un team lavorativo, di un insieme, la giusta motivazione di percorso. Questo non è una giusta motivazione, questo gesto non rappresenta affatto una professionalità e anche una serietà, in un aspetto di spettacolarizzazione più che di spettacolarità che sta portando questo non basket costantemente a tutto ciò che troviamo nella quotidianità sportiva di una regular season troppo lunga. Va bene, chi se ne frega, è troppo lunga, però giocatela seriamente. She's not just another woman, she's not, no, no, she's not just another woman, she's not, no, no, she's given me a newborn birth, a fine sweetness on this bitter, she knows the things to say to help my troubles away, and when the words she say won't do, she'll try a kiss or two, and if a kiss that fail to move me, she'll take a little time to soothe me. She's mine, mine, mine. She knows how to control me. She's mine, mine, mine. She knows how to control me. I don't want nobody talking about my baby. Nobody talking about my baby. I never thought I'd find another who gave me more love than my own mother. She's not just another woman. She's not, no, no. She's not just another woman. She's not, no, no, no. She taught me the meaning of giving. She brought me back from the death to the living, from a one-room dirty shack. She washed the clothes on my back. She's got electrifying loving, as warm as a mother's oven. Don't know where she gets the power. Her love gets stronger by the hour. She's mine, mine, mine. She knows how to control me. She's mine, mine, mine. She knows how to control me. Listen, she's not just another woman. Ottavo giorno, Dio creò il soul, and the eighth day God created soul, dall'Invictus, una label molto attenta, una, se vogliamo, non si fanno paragoni, però una Motown, dove il gruppo The Chairman of the Board sono stati i più rappresentativi in questo rare groove soul di colonna sonora oggi al Moved Groove. I ask my own father, I believe a love could stretch for one another soft of other. Prima di andare in pubblicità, per tutto ciò ringrazio Federico Minghini, detto Mingo, per la conduzione di Caffè Paglia, dove ovviamente più vicinanza al contemporaneo nel mondo dello sport. Tra uno stacco pubblicitario e l'altro, ieri ho chiesto delucidazioni perché mi hanno inviato più volte questo video e io sono rimasto addirittura all'inizio, non capivo ma che sta succedendo in questo frangente. C'è un time out, uno che non c'entra niente entra in campo, siamo al Boston Garden, insomma ho chiesto chiarimenti, lui mi ha dato spiegazione, io non l'ho trovato assolutamente un gesto che approvo, che purtroppo è allineato con il hashtag cambiategli nome, si continua con la spettacolarizzazione. Invece ho trovato motivo di commento per altre appassionate e appassionati: no, che forte, che simpatico, è stato un grande, questa è grande grinta, no, no, questa qui è poca serietà e poco soprattutto rispetto per l'avversario. She meno male che nella mia miserabile carriera di atleta non mi è mai capitata una roba del genere. Un po' più fumantino rispetto ai miei 55 anni attuali, chiaramente se l'allenatore avversario, che già a volte era provocatore di per sé dalla panchina, entrava in campo anche a gioco fermo per ostacolarmi, io dico che mi cacciavano fuori nell'immediato. Non ho mai avuto grande simpatia per gli allenatori, figuriamoci se l'allenatore avversario viene a marcarmi, lo rovino. Was much too strong. I couldn't get down on my knees and say I was wrong. But I needed her love. I couldn't stay off the street. I knock on the door and she's on a repeat. You got to crawl before you walk back into this. Questo ovviamente non è producente perché vengo cacciato fuori. E queste, sapete, no, le provocazioni sono all'ordine del giorno. Lo troviamo nello scacchiere internazionale, figuriamoci su un parquet di basket medio o minore, per cui sempre un taglio al Mood Groove quest'oggi, insomma una sorta di professionalità e serietà per il rispetto soprattutto nei confronti dell'avversario e l'esempio che si vuol dare ai propri giocatori. L'hashtag ha cambiato gli nome e parlando con Federico ieri, con Mingo, ha detto: sai quale potrebbe essere un nome? Il Ciapanò. Io il Ciapanò lo chiamo anche traversino. Non so se siete appassionati di carte, io basta che non ci sia neanche un centesimo sul tavolo, sono un grandissimo appassionato di carte, ma chiaramente basta che non si giochi di soldi, si giochi per stare insieme, per divertirsi, perché appunto il gioco delle carte secondo me è stupendo. Il Ciapanò è il 3-7, il 3-7 in 4 è il gioco più bello in assoluto che sia mai stato inventato. Ci sono delle alternative. Già dalla parola Ciapanò o traversino è un gioco del 3-7 a voler perdere e potrebbe essere il nuovo nome di questo non basket che troviamo nei campionati attuali. E chiaramente dopo la pubblicità vi spiegherò il perché. A tra poco. We'll be right back. diretta, ultimi 10 minuti di questo atipico Move to Groove, dove pallacanestro e in questo caso una sorta di professionalità si incontrano in un'arca della gloria che non sempre è della gloria, grazie agli appuntamenti e i contrappunti, scusate il gioco di parole, di Paolo Onofri da remoto, salutando Rookie of the Year Pietro Rossi, che aspettiamo nuovamente in frequenza con noi per il martedì imprevedibile di Radio Città Fujiko. Mette un limite al ciapanò, di solito è 31, si gioca con al massimo una quantità di giocatori relativi alla suddivisione delle carte, dopodiché si parte con le regole del 3-7, quindi 3-2-1, le carte più importanti, le figure valgono un terzo di punto, l'asso vale 1, il 3-2 valgono come una figura, ecco questo a grandi linee, dopodiché si è tutti contro tutti per quanto riguarda il ciapanò o traversino, io preferisco chiamarlo traversino, ciapanò mi piace di più come termine dialettale, ecco. Scopo del gioco: non prendere mai, è un gioco a perdere. Ma attenzione, se decidete, avete carte ottime e decidete di battere da solo tutti gli altri, a quel punto avete dato cappotto e tutti gli altri pagano il massimo del punteggio che può essere contenuto nel mazzo di carte per il 3-7, cioè tutti gli altri pagano 11 punti. Nuova pallacanestro, se possiamo chiamarla pallacanestro, non ha questa caratteristica, quindi puoi non prenderci mai, ma perdi comunque, per cui unico aspetto che voglio mettere in parallelismo, che non ci può stare con l'hashtag cambiategli nome e chiamarlo traversino, ecco, nel caso del traversino, se non prendi mai o prendi sempre, gli altri, gli avversari pagano 11, se nel cambiategli nome, questo nuovo non pallacanestro, non ci prende mai, perdete comunque, e infatti, perché ho visto questo modo di chiamare l'espressione sportiva di cui vi sto dando approfondimento, per alcune statistiche che ho visto in una competizione che ha trovato la Fortitudo Bologna però vincente, è la semifinale di una strana coppa, la Coppa Italia di A2 la chiamano, adesso io non sono così vicino, per cui prendete per buono quello che vi sto dicendo, si è trovata in semifinale con la squadra di Trapani, ha vinto di 30 punti mi pare. Beh, la squadra di Trapani, attenzione, da 3 punti ha fatto 2 su 27, una roba che non si riesce neanche a raccontare, 2 su 27 da 3. Alza la partita per esprimere solidarietà al cosparente degli Shark Trapani, che dopo un ruolino di marcia quasi impeccabile per tutto l'anno, me l'han detto, viene sollevato dall'incarico per essere uscito ai quarti di finale, scusate, alla semifinale della Coppa Italia LNP. Sembra un po' tantino esagerato, eh. Now it seems we're destined to be. Sì, me l'hanno detto, hanno poi detto questo coach della società di Trapani, della società siciliana, dopo aver portato percorsi vittoriosi e grandi conferme, perde questa semifinale di una strana coppa di cui non sapevo neanche l'esistenza, viene esonerato. Questi episodi li mettiamo nella Hall of Shame, non in the Hall of Fame. Oggi abbiamo voluto dare più attenzione alla Hall of Shame. Abbiamo un minuto, facciamo una piccola divagazione per le ascoltatrici e gli ascoltatori, super mattiniere e super mattinieri del Breakfast Club. Allora, il Breakfast esiste da 11 anni più o meno, adesso con la precisione, però è andato oltre i 10 anni, ha avuto trasformazioni in ogni singola rubrica proprio per renderla, oltre che vicino al pubblico, anche per motivi funzionali e concreti, sia di palinsesto che di contenuti, lavorando su ogni singola rubrica. Ora sto portando un motivo di cambiamento nel complesso del format, cioè mantenere una rubrica costante, contraddistinta dal giorno della settimana, ma come avete ascoltato quest'oggi, il last minute è stato, non dico dominante, però molto molto presente, con appuntamenti sempre relativi ai contenuti del Breakfast Club. Questo insomma vuol dire che non ci sarà un aspetto integralista legato alla rubrica, seppur di traino fondamentale per la prima colazione in diretta, però avremo nel last minute attinenze che magari vanno fuori da questa particolarità di conduzione, nel senso di traino al lunedì magazine, che è più omnicomprensivo, al martedì il mood groove come quest'oggi, che è stato seppur presente in frequenza ma con un last minute che, viste le necessità del lungo 800 e la presenza di Angelica, ha ceduto, ha commistionato un pochettino i contenuti. Lo stesso sarà per il voltiamo pagina, allo stesso modo in mostra, che per motivi di presenza in città sarà molto molto in frequenza in questo periodo della stagione, e come di consueto in scena, che a volte porta motivo di conduzione legato ad altri aspetti che non siano unicamente il palcoscenico. Non so se sono stato molto chiaro, però insomma volevo rendere edotti anche le ascoltatrici e gli ascoltatori del Breakfast Club. La musica certamente non mancherà, chiaramente Manteca, in questo caso alle 8:49 minuti, che accompagnano i saluti e i ringraziamenti per aver fatto colazione con Radio Città Fujiko. Appuntamento a domani invece è esteso con il voltiamo pagina, addirittura inizieremo subito dopo il GR di Radio Popolare con una presentazione in diretta in compagnia dell'autore del lavoro portato da Silvia Albertazzi, poi avremo i due titoli a disposizione per voi. Ribadisco, alle ore 7 con il Breakfast Club la prima colazione in diretta, ringraziando Paolo Onofri da remoto per la co-conduzione del Mood Groove. Tra pochissimo Lady Pen Enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, la rassegna stampa. Mi raccomando, non perdete il vinile quotidiano. A domattina con il voltiamo pagina e con il Breakfast Club. Un caloroso abbraccio dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti. Un buon ascolto sui 103.1. Servo vostro, mi inchino e vi ringrazio e vi do appuntamento alla mattina di domani. Ciao!